Abbiamo con noi Leonardo Colletti, anzi è piacere di avere con noi Leonardo Colletti e il suo libro che è veramente stata una scoperta per tutti noi che l'abbiamo letto d'un fiato, e in particolare, ecco, devo dire, mi ha profondamente colpito e vorrei riassumere in una frase che non è mia, ma bensì di Oliver Holmes, quella che è l'emozione che ho avuto alla fine di questa lettura. Una volta che la mente di un uomo si è espansa grazie a una nuova idea, non tornerà mai più alle sue dimensioni originarie. E questo è il migliore inizio, è il migliore augurio che si può fare soprattutto ai giovani, alle ragazze e ragazzi che in questa età iniziano un percorso, e gli auguriamo il più ricco e il più aperto possibile. Le biblioteche servono anche a questo, e anzi soprattutto a questo, perché con i loro scaffali pieni di libri e così questo aspetto che si vuole sempre meno austero, sono predisposte per fare in modo che le persone trovino un percorso, degli strumenti per crearsi delle idee sempre in merito a qualsiasi argomento. Questa sera abbiamo con noi Leonardo Colletti che ci apre delle nuove prospettive di lettura, non solo dell'arte, della storia della fisica, ma proprio anche forse un modo di vedere le cose diverso. Cedo subito la parola al nostro autore, che ringrazio. La biografia la conoscete, è un personaggio di tutto rilievo, oltre ad aver collaborato con la LUB e ad aver insegnato al liceo classico, ormai di livello universitario, è una persona molto anche simpatica e devo dire che ci ha fatto piacere avere questa occasione di averlo qui con noi. Grazie Leonardo. Allora, grazie alla direttrice Valeria Trevisan, e volevo ringraziare anche la signora Franca Heller che ha organizzato questo appuntamento, e ovviamente voi tutti che siete venuti. Io ho preparato così un discorso di introduzione generale al libro che appunto ho scritto non molto tempo fa, la scorsa estate, l'estate 2010. E ho scritto quasi di getto, nel senso che ho coltivato le idee che si trovano in esso per anni, in qualche caso anche grazie appunto allo stimolo dei miei studenti che mi costringono a ripensare i concetti continuamente per andare un po' incontro al loro modo di vedere le cose. E poi vi dicevo, mi sono deciso un po', mi sono dovuto un po' legare alla sedia, un po' come Alfieri, se ben ricordo, no? Metaforicamente, ovviamente, insomma, quindi in un mese, proprio in 30 giorni, in 32 giorni ho scritto i 32 capitoli del libro, molto male all'inizio, poi forse un po' meglio in fase di revisione. E poi ho avuto la soddisfazione appunto di incontrare il favore della casa editrice Lindau di Torino. E quindi il libro è uscito a luglio 2011. Come vi dicevo, è composto da 32 capitoli, tutti piuttosto brevi, sono 5-6 pagine, 7 pagine ogni capitolo, e credo che questa sia anche così aiuti la lettura. E quello che appunto non dico nell'introduzione è che lo si può leggere anche in ordine sparso, insomma uno può iniziare anche dal capitolo 10 e poi tornare indietro, insomma, anche se è vero che c'è poi una storia, un filo conduttore, ma che direi che è del tutto secondario. Ecco, allora volevo parlare delle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro, perché di libri di divulgazione scientifica e di fisica ce ne tanti, scritti da personaggi molto più autorevoli del sottoscritto. Tuttavia io ho voluto immettermi in una, diciamo, in una prospettiva che mi sembrava nuova e che diciamo, è la necessità della quale mi è stata sollecitata, vi dicevo, dall'insegnamento. E la prospettiva, diciamo, per spiegarlo, ho pensato di fare riferimento a una mappa geografica. Questa è la nostra provincia, forse è difficile riconoscerla se non ci sono troppo forte. Posso stare anche senza microfono? Sì. Proviamo? La mappa della nostra provincia si stenta a riconoscerla se non sono riportati i confini, ad esempio il confine di Stato, il confine regionale della provincia. Però questo è quello che abbiamo alla fine, cioè la nostra terra non ha confini, i confini più o meno sono delle cose che dipendono anche dall'epoca, insomma, dalla cultura, dall'organizzazione, insomma, della nostra società. Un fiume non conosce confini, un fiume parte in una provincia e arriva in un'altra o addirittura attraverso gli stati. E quindi in un certo senso è quello che a volte si dice, dicendo che esistono i problemi, le discipline sono solo delle raccolte di strumenti analoghi tra di loro per affrontare i problemi. Però diciamo, questa è una cosa, la disciplina è secondaria rispetto al problema. E allora, forse anche sollecitato dall'essere nato e cresciuto in una provincia di confine, quindi nell'interrogarmi, un po' abituato a interrogarmi a cosa c'è di là e se c'è qualcosa di simile a quello che c'è di qua, ho provato appunto a vedere cosa c'è al di là della fisica e se ci sia qualcosa che si conserva quando si passa dal modo di un fisico di guardare il mondo al modo della cultura umanistica, ad esempio. Ecco, tradizionalmente, un po', cioè questa è una cosa che serpeggia nella società, il fatto che ci sia una frattura netta tra la cultura umanistica e la cultura scientifica. Una cinquantina di anni fa ci fu un famoso libello scritto da un intellettuale inglese proprio intitolato Le due culture, in cui questo intellettuale, Charles Snow, diceva che uno dei problemi fondamentali della nostra epoca... Sì. Uno dei problemi fondamentali della nostra epoca nasce proprio nel momento in cui si considera questa frattura all'interno di quella che dovrebbe essere una cultura unitaria. Io ho pensato di presentare questa situazione in questo modo qui. Allora, il tipico problema di fisica che si presenta a scuola, nell'università e che in qualche modo è il paradigma di quello che ci sembra la scienza è questo. C'è, ad esempio, questo l'ho preso proprio dai miei appunti, abbastanza a caso, c'è un ponte alto 23 metri su un fiume e calcolare la velocità dell'impatto con l'acqua di un corpo che cade in caduta libera dalla sommità del ponte e calcolare quant'è il tempo impiegato, eccetera. Non si dice se il ponte è il Bay Bridge di San Francisco oppure il ponte di altri ponti, insomma, famosi, perché il potere della fisica è questo, di unificare. Questo esercizio vale per tutti i ponti del mondo. In questo senso, da una parte la fisica ha questo approccio universalizzante, dall'altra però è spersonalizzante. La cosa cambia, quindi questo è un po' per illustrare la parte scientifica. La cosa cambia se di quel ponte, diciamo, che è il ponte di cui si è parlato anche in questi giorni, il ponte di Mostar, questa città che ha conosciuto la guerra anche in anni recenti, un ponte antichissimo, da cui i giovani nella tradizione della Bosnia si lanciano per dimostrare il loro coraggio, o la loro incoscienza, insomma, a seconda, no? E che rappresenta un po' l'unione, il tentativo di unione tra le due etnie conviventi. Ecco, quindi vedete, da una parte c'è l'approccio così spersonalizzante, se vogliamo, come si dice, arido, freddo della fisica, e al di là di questo confine netto tra le due culture c'è invece l'approccio della cultura umanistica, in cui si fa appello proprio a quello che noi sentiamo, alla nostra capacità di immedesimarci in quei ragazzi che prima si lanciavano dal ponte per dimostrare il loro coraggio nelle tradizioni, quindi epocali, di una città, e che poi si sono scontrati sul fronte bellico. Insomma, quindi una grande differenza di approccio tra le due culture. Cosa ne pensano i fisici di questa differenza tra le culture? Allora, io ho invocato, diciamo, il pensiero di due grossi fisici del Novecento, E il primo è Erwin Schrödinger, uno veramente dei più grandi fisici di tutti i tempi, è austriaco-viennese, con una grande cultura, e quello che il giudizio che lui dà è tranchant su questa prospettiva di potenziale, diciamo, indebolimento del confine. Lui dice: l'immagine scientifica del mondo ci dà una quantità di informazioni concrete, conferisce un meraviglioso ordine sistematico, tutti i ponti del mondo sono uguali se io parlo di gravità, a tutta la nostra esperienza, ma è d'un silenzio spettrale su tutti i problemi generali e particolari vicini al nostro cuore, che hanno veramente importanza per noi. Non ci può dire una parola sul rosso e l'azzurro, l'amaro e il dolce, il dolore e la gioia fisica. Non sa nulla della bellezza e della bruttezza, del bene e del male, di Dio e dell'eternità. Quindi Schrödinger scava questo confine tra i due approcci della conoscenza. Dall'altra parte però non è sempre così, non è sempre così nell'opinione degli scienziati, e quindi ho rintracciato uno scienziato che la pensa, pur essendo anche lui un grande fisico, anche lui un premio Nobel esattamente come Schrödinger, autore di scoperte fondamentali per lo sviluppo della scienza del Novecento. Isaac Rabi la vede diversamente, dice: la scienza è un'avventura dell'intera specie umana per imparare a vivere e forse ad amare l'universo in cui ci troviamo. Vedete, già qua, vedete, dice, cioè, la scienza ci aiuta addirittura ad amare, no? Qualcosa che già comincia a farci vedere le cose in modo diverso da come le vedeva Schrödinger. Farne parte significa comprendere se stessi, comprendere quella parola che ad esempio i filosofi avevano individuato come ciò che riguarda proprio la cultura umanistica. La cultura umanistica è ciò che fa comprendere, mentre la cultura scientifica è ciò che spiega, no? Rabi usa questo verbo per la scienza, comprendere se stessi, iniziare a sentire che c'è una capacità dentro l'uomo che va ben oltre a quella che egli pensava di avere. Io propongo che le scienze siano insegnate a qualunque livello, dal più basso al più alto, in un modo umanistico. Quindi si può trattare la scienza in modo umanistico. Dovrebbero essere insegnate con una certa comprensione storica, con una certa comprensione filosofica, con una comprensione sociale e una comprensione umana nel senso della biografia, del carattere delle persone che fecero questa costruzione, i trionfi, i tentativi, le tribolazioni. Ecco, allora io, diciamo, mi sono ispirato modestamente a Rabi, no? E dico modestamente anche perché mi sono ispirato anche a Modest, questa è una brutta battuta, a Modest Mussorgsky, che è questo appunto grande compositore di fine Ottocento, che un po', diciamo, mi ha dato un'ispirazione sulla modalità per affrontare questo tentativo di oltrepassare il confine tra cultura umanistica e scientifica. Lui l'aveva fatto questo oltrepassamento, diciamo, stando all'interno della cultura umanistica, cioè aveva cercato di esprimere con la musica i quadri che aveva incontrato in una esposizione organizzata da un suo amico. È il famoso appunto quadri di un'esposizione, che poi appunto dà il titolo al libro, anche se appunto magari io ci ho pensato a lungo sul titolo, no? Avevo anche interpellato i miei studenti magari di suggerirmi qualcosa di un po' più catchy, come dicono loro, no? Un po' più che suoni meglio. Ma non l'ho trovato, insomma, quadri di un'esposizione non suona molto bene forse, però fa questo riferimento letterario importante proprio nel senso del cercare di usare un linguaggio per esprimere contenuti tipici, tipicamente espressi con un altro linguaggio. E quindi io ho cercato di utilizzare il linguaggio e i concetti della fisica per parlare di quadri, oppure di guardare i quadri e ricavarne qualcosa, un suggerimento, diciamo, per la fisica. E per cercare di essere un po' più leggibile, ho pensato di scrivere queste cose in forma di dialogo, quindi mi sono inventato due protagonisti. All'inizio, devo dire, ho buttato i nomi lì abbastanza così, Paolo e Francesca, diversi mi hanno detto che è banale, che è scontato, eccetera. Alla fine anche l'editore, lui mi ha detto di era soddisfatto di questa scelta e diciamo l'ha interpretata un po' come un omaggio da parte della cultura scientifica verso la cultura umanistica, verso il maestro della, uno dei grandi maestri della cultura umanistica, no? Dante, che ci parla di Paolo e Francesca che si innamorano leggendo una, la storia di Lancillotto. Io invece diciamo 700 anni più tardi faccio leggere a Paolo e Francesca, li faccio innamorare, questo non si sa, se leggete il libro forse si capisce, non si capisce, leggendo i quadri. E allora adesso vi farei vedere un po' di alcuni esempi dei quadri che ho riportato, un quadro a capitolo. Forse la parte che caratterizza un po' questa illustrazione della fisica, la cosa che la caratterizza è l'attenzione al metodo soprattutto. Spendo diversi capitoli, credo siano almeno 5 o 6 capitoli all'inizio del libro, per mettere l'attenzione sul metodo della fisica. Metodo che non è semplicemente qualcosa per ottenere tecnologia, per favorire l'industrializzazione o fornire delle comodità all'uomo, quindi la scienza non è solo qualcosa per tecnologia, ma è un metodo che è tutt'altro che solo per la scienza, cioè ci dà una lezione, se vogliamo, anche morale. Il metodo della scienza ci dà una lezione morale, e questo è il grande merito, io ritengo, di un filosofo come Karl Popper. E questo quadro al protagonista del libro, che è il fisico, si chiama Paolo, ispira proprio, ricorda questo esempio con cui Popper presenta il metodo della scienza. Paolo vede i tacchini, dice: ah, i tacchini. L'amica dice: sono i tacchini di Monet, eccetera, dell'impressionismo. Dice: ma a me il tacchino ricorda il metodo scientifico. Perché? Perché Popper lo racconta così, il metodo scientifico. Immaginate che ci sia un tacchino in un tacchinaio, non so come si chiama, insomma, l'equivalente del pollaio. Questo è un tacchino giovane e ambizioso che vuole capire come va il mondo, vuole trovare una legge per il mondo. E lui osserva e vede che tutti i giorni sorge il sole, quindi dalla notte arriva il giorno, arriva un signore con un grembiule, eccetera, un grande secchio, inizia a distribuire il cibo ai tacchini, e i tacchini mangiano e poi, insomma, se la godono, torna la notte e via così. E quindi il tacchino è contento, dice: questa è la legge scientifica, e ogni giorno ripete sempre la stessa osservazione. E dice anche ai compagni tacchini: vedete che ho ragione? Tac, ecco il sole, tac, ecco l'omino, adesso mangiamo, e questa è la legge. È così che io faccio lo scienziato, dice il tacchino. Se non che un giorno, che in America si chiama il Thanksgiving Day, sorge il sole, e il tacchino dice: ecco, sole, poi arriva il signore che distribuisce il cibo, no, arriva il signore, prende il tacchino scienziato e gli tira il collo. Quindi, fallimento delle ambizioni scientifiche del tacchino fine della storia del povero tacchino. Popper dice: non è così che funziona la scienza, cioè la scienza non funziona ostinandosi nel ripetere sempre le stesse osservazioni. Lo scienziato vero è quello che, una volta fatta una teoria, prova a metterla in difficoltà. Allora quel tacchino avrebbe dovuto cercare di allargare un po' il suo campo d'orizzonte, non accontentarsi, pascersi nel suo sapere periodicamente confermato da sempre la stessa osservazione, ma cercare qualche osservazione, cercare di mettere in difficoltà il suo sapere, il suo tentativo di conoscenza, la sua legge. E quindi questo, dice Popper, la scienza funziona come congetture e confutazioni, cioè si fa una congettura e poi si cerca di metterla in difficoltà. Se la difficoltà viene superata si parla di corroborazione, ma ovviamente non si può dire che quella legge sia vera, non lo potremo mai dire. Possiamo dire che la legge è falsa perché ci basta una controprova, ma non ci basterà mai un numero finito di prove per dire che abbiamo confermato la validità della legge. E Popper poi, che parte come epistemologo, prende questa ricetta, quindi come persona che riflette sul metodo della scienza, prende questa ricetta e la esporta, quindi alla faccia dei confini tra cultura scientifica e cultura umanistica, la esporta in campo sociale, politico. Dice: c'è una lezione lì, c'è una lezione di onestà intellettuale che ci insegnano gli scienziati, cioè dovremo essere anche nella nostra vita così, non ostinarci sulle cose che pensiamo di sapere e tirare l'acqua al nostro mulino, ma essere aperti e alle sfide che ci propone l'esperienza di tutti i giorni e essere capaci di cambiare la nostra idea, insomma, quando ragionevolmente abbiamo delle prove contrarie, invece che cercare delle scusanti. Quindi questo è un primo modo, diciamo, di cercare di far vedere che la scienza non è solo una ricetta, non sono solo dei calcoli noiosi che si imparano a scuola, ma c'è dietro, dice Popper, una lezione morale, l'apertura all'onestà intellettuale, l'apertura al nuovo. Allora poi Francesca chiede, ma succede che, perché dice poi anche gli uomini sono, anche gli scienziati sono uomini e si ostinano sulle loro idee, no? Perché vogliono aver successo, perché vogliono lasciare il loro nome magari una legge scientifica molto, molto potente. E Paolo gli spiega, di fronte a questo quadro che è la conversione di Saul di Caravaggio, la conversione di San Paolo di Caravaggio, dice: sì, ci sono state, se andiamo a vedere nella storia della scienza, delle conversioni, effettivamente quello che dice Popper è successo, cioè ci sono scienziati che sono nati, cresciuti, hanno avuto successo applicando un certo insieme di regole e a un certo punto della loro carriera, messi di fronte all'esperimento, hanno dovuto cambiare completamente il loro punto di vista. E fa degli esempi, Paolo, io ve ne faccio due, ad esempio dice Keplero, allievo di Brahe, aveva questo libro, aveva ereditato da Brahe, insomma l'aveva, gli era stato dietro negli ultimi anni proprio perché voleva assicurarsi il possesso di questo libro di dati precisissimi, e una volta morto Brahe, finalmente Keplero, molto geloso dei suoi dati, dei dati appunto di Brahe, riesce a mettere le mani su questo libro e inizia a cercare di capire come migliorare la descrizione del sistema eliocentrico di Copernico. Ci prova e ci riprova, provando a combinare tante orbite circolari, e non ci riesce. C'è sempre qualche dato precisissimo di Brahe. Keplero dice, anche qui un esempio di onestà intellettuale: Dio ci ha dato Brahe e noi dobbiamo rispettare Brahe, nel senso Dio ci ha dato una persona capace di una tale precisione, sono dati sperimentali, noi li dobbiamo rispettare, non possiamo dire vabbè c'è un cerchio e c'è qualche dato che ci sta fuori. No, lui per 10 anni, Keplero, prova e riprova, c'è un libro in un museo a Praga di 900 pagine di tentativi, di fallimenti di Keplero di inscrivere delle orbite circolari, far passare le orbite circolari su questi punti, non ci riesce, e a quel punto dice l'orbita circolare non funziona, ci prova con un'ellisse e l'ellisse funziona perfettamente, è la prima legge di Keplero, poi, no? Che le orbite percorse dai pianeti sono delle ellissi. E questa è stata una vera e propria conversione, perché lo stesso Galileo, collega e contemporaneo di Keplero, dà nei suoi scritti, dà del pazzo a Keplero, perché dice non si può quello lì usa delle ellissi, da quando non sei mai visto usare delle ellissi, perché dai tempi di Platone, cioè a quell'epoca, quindi quindi da 2000 anni il dogma assoluto era i moti celesti vanno descritti con cerchi, va bene? Keplero non è mica facile, a noi sembra banale, insomma, magari, no? Però non è mica facile cambiare così radicalmente opinione, come se domani un astronomo ci venisse a dire che le orbite sono triangolari, non so, una cosa di questo genere, insomma, no? Ovviamente. E poi ci sono altri esempi, c'è l'esempio di Planck, anche lui, fisico di fine 800, primo 900, che si afferma utilizzando, portando al trionfo la meccanica classica, e poi di fronte a un problema banale, cioè banale nel senso molto trascurabile, no? Che si chiama la radiazione del corpo nero, ma insomma questo è veramente, non entrerei nel dettaglio, vede che tutto il suo bagaglio, il suo armamentario di teorie non funziona, e non è che lo mette da parte, dice vabbè, no, ancora una volta onestà intellettuale, no, va proprio a vedere perché non funziona, ci prova per 6 anni, dopodiché si deve arrendere e introduce la famosa ipotesi rivoluzionaria che andava contro a tutto ciò che si era considerato fino a quel momento, l'ipotesi del quanto di luce, no? Quindi un'altra conversione fatta alla luce dei dati sperimentali, che non si possono trascurare, è una questione di onestà intellettuale. Un'altra conversione molto interessante, proprio, ce ne sono tanti, posso trovare tanti esempi, vi voglio accennare anche questa, è quella del grande matematico Poisson, no? Grande matematico accademico di Francia, che è convinto, come tutti i suoi, quasi tutti i suoi contemporanei, che la luce vada descritta come un insieme di particelle. Sostanzialmente perché l'aveva detto Newton, contraddire Newton è difficile, insomma. Arriva un altro giovane francese, Fresnel, e si presenta a un concorso in cui era giudice, appunto questo Poisson, e dice: no, la luce si descrive meglio come un'onda, non come un'emissione di particelle, ma come un'onda, è un fenomeno ondulatorio. Poisson, onestà intellettuale, dice: vabbè, caro ragazzo, se dici che è un'onda, ti faccio vedere quali sono le implicazioni. Fa dei calcoli e gli dice: se tu fai quell'esperimento lì, se tu getti della luce su un disco circolare e vai a vedere com'è l'ombra dietro, se è vero che la luce è un'onda, nel centro di quell'ombra ci deve essere un puntino luminoso, il che, caro ragazzo, è evidente, è assurdo che nel centro dell'ombra ci sia un puntino luminoso. Cosa fanno? Fanno l'esperimento e, osservando accuratamente, nel centro dell'ombra si trova un puntino luminoso. E quindi, giù il cappello di fronte all'esperimento, anche Poisson, grande accademico di Francia, dice: dobbiamo cambiare. La luce non è più un insieme di particelle, la luce va descritta come un'onda. Quindi anche lì, se volete, anche l'umiltà, no, del grande Poisson di fronte al ragazzino Fresnel, che tra l'altro era proprio un outsider nel campo della fisica, era un ingegnere, però aveva avuto quest'idea, e l'autorevolezza in fisica è quella dell'esperimento, quella dell'idea, non è quella, si contrappone all'autorità che magari ha il suo peso invece in altri campi, non so, al campo politico o sociale, il chi l'ha detto, insomma. Ecco, poi, perché c'è un'altra cosa molto interessante della fisica, il linguaggio che utilizza. E quindi a questo tema Paolo e Francesca arrivano nel momento in cui incontrano il quadro di Bruegel, il vecchio, la grande torre di Babele. Quindi inizia un discorso sul linguaggio. Paolo fa notare che se si possono fare degli esperimenti che mettono d'accordo tutti, è perché le congetture, le teorie della fisica, alla fine ci parlano di numeri, di cose che non si possono interpretare, che io posso solo misurare e prenderne atto. E quindi la fisica riesce, laddove forse il linguaggio letterario, umanistico in generale, non riesce, cioè a dare un senso, un significato univoco ai suoi concetti, perché alla fine questi concetti sono delle misure. Insomma, che cos'è la libertà? Che cos'è il piacere? Insomma, è un po' difficile mettersi d'accordo. Insomma, possiamo dire delle cose meravigliose. Qua, se vogliamo, c'è una frattura tra le due culture. Perché in fisica, se si dice che cos'è la velocità, va bene, come diceva Schrödinger, è qualcosa che non parla al nostro cuore. Però se io dico che cos'è la velocità, dico: guarda, prendi un cronometro, prendi un metro, c'è un oggetto che si muove, misura quant'è lo spazio percorso, guarda quant'è il tempo passato e fai la divisione dei due numeri, quella è la velocità, ci capiamo tutti. E quindi c'è questa, appunto, capacità di essere intersoggettivo della fisica. Questo è meraviglioso. Io agli studenti lo dico ogni tanto, dico: forse la matematica, che è il linguaggio della fisica, è noiosa, però nel momento in cui studiate matematica e fisica siete nello stesso gruppo degli studenti cinesi degli studenti africani, degli studenti di 100 anni fa e degli studenti che ci saranno tra 100 anni. Cioè è un modo, diciamo, anche questo, se vogliamo, una lezione morale, di unire di trovare qualcosa che è comune attraverso la diversità delle genti. Quindi abbiamo una base su cui instaurare un linguaggio che forse non parla al cuore, ma che almeno ci fa capire che possiamo capirci tra di noi, insomma. E a proposito di linguaggio, poi c'è questo quadro di Chagall, che è il poeta, mi sembra che abbia anche un altro titolo alternativo, le ore 5, una cosa del genere. Il poeta, qui Francesca, che ogni tanto interviene in questo dialogo, che si fa spiegare le cose da Paolo, fa delle considerazioni interessanti, e dice: beh, però la poesia e la fisica non hanno proprio nulla in comune. No, il poeta è quello che è capace di esprimere in un verso così fulmineo, di cogliere una verità che non ne vuole sapere di numeri, che non passa attraverso i numeri, le formule, no? Coglie una verità in cui il poeta di successo, in cui le persone si riconoscono. E Paolo dice: beh, a pensarci, se vogliamo, anche in fisica è un po' così, cioè le grandi leggi fisiche, le leggi universali, sono un po' come dei versi, nel senso che esprimono, contengono, come dei versi di un poeta ermetico, forse è meglio dire, no? Cioè esprimono nel poco, con pochi segni, una grande molteplicità. Va bene, e quindi ad esempio la gravità riguarda, quindi quella formula di Newton, no? M per M diviso R alla seconda, insomma, quella forza lì riguarda tanto le arance, per non dire le mele, insomma, quanto noi che tutti i giorni, da quando siamo nati, siamo sottoposti a questa forza, i pianeti, eccetera. Quindi è un modo di cogliere, così in un verso fulmineo, una grande verità. Quindi in un certo senso c'è questa somiglianza tra la poesia e la fisica. Ci sono dei grandi versi che dicono tantissimo in poesia e ci sono delle equazioni in fisica che in pochi segni dicono anche tantissimo. Quindi c'è alle spalle di entrambe, diciamo, di entrambi gli approcci al mondo, c'è un tentativo di unificazione, ecco, no? di cogliere una verità attraverso le cose molteplici. E allora vediamo uno degli esempi, uno dei grandi concetti della fisica che passa attraverso una molteplicità di cose, è quello di energia. E allora, questo è un quadro di Murillo, i ragazzi che mangiano melone e uva, e Paolo ne approfitta per parlare dell'energia e dice, forse qua vi leggerei proprio un passo, stavo dimenticando proprio di leggere qualcosa, magari. Allora dice così, vi leggo proprio: l'energia mi ricorda Proteo, un personaggio della mitologia greca, commentò Francesca, un essere per l'appunto proteiforme, ossia capace di assumere le forme più diverse e comunque di continuare a essere sempre se stesso, Proteo. Paolo si perse per un attimo nel volto della ragazza. Anche da lì, pensò, prima di proseguire con i suoi commenti, si sprigionava una qualche forma più misteriosa di energia. Poi, qua, insomma, continua la spiegazione. Francesca lasciò nuovamente cadere il suo sguardo su quei bambini affamati. Noi viviamo, conduciamo le nostre vite, crediamo di esserne i padroni assoluti, e invece lì fuori, e anche dentro di noi, c'è un mondo in cui tutto si trasforma, dominato dal fluire di questa sostanza proteiforme, da un contenitore all'altro, da una forma all'altra. Io stessa, poco fa, pensavo di aver preso un caffè, e non mi sono resa conto che era invece il caffè a prendere me, che era la sua energia a riversarsi nei legami chimici che costituiscono il mio corpo. Potrei anche dire che mi ero fermata alla stazione di servizio a fare il pieno di benzina per questa mia macchina che chiamo corpo. Per il mondo della fisica non siamo altro che forme temporanee dell'energia? chiese Francesca, sul cui viso si dipinse un'ombra di malinconia. Quindi vedete, in un certo senso i concetti della fisica non sono così freddi, così aridi, cioè ci aiutano a illuminare un po' il nostro mondo. Francesca si rende conto di essere in un certo senso una macchina, è qualcosa comunque, questo concetto, che ci fa riflettere, così come fa ancora più riflettere il fatto che la scienza ci dice, e non è una conoscenza solo scientifica, solo da laboratorio o da maniaci della statistica, ma ci dice che viviamo in un mondo che, in cui l'energia si comporta in un certo modo, l'energia tende a degradarsi, tende a diffondersi, e questo è, diciamo, suscitato questo pensiero dalla visione di un altro quadro di Bruegel, che è Il trionfo della morte, in cui vedete appunto si ha questa scena di massimo disordine, di vite che vengono falciate, questa morte che arriva ovunque, che è un po' il quadro che ci presenta anche la fisica moderna. Cioè, noi viviamo sulla Terra, cresciamo, ci possiamo organizzare perché abbiamo una continua sorgente di energia dal Sole, ma nel momento in cui il Sole smette, nel momento in cui cessasse di funzionare, prevediamo tra circa 5 miliardi di anni, quindi nel momento in cui il cielo si oscura, e forse Bruegel aveva questa idea un po' del sole come fonte di bene, come sorgente di vita, c'è anche tante religioni, insomma, dell'antichità, non so, il sole come divinità, no? Nel momento in cui l'energia è abbandonata a se stessa, non c'è un continuo rifornimento, si ha questa vittoria del disordine e disorganizzazione, quindi anche la vita, appunto, la vita è una forma estrema di organizzazione, di forma antientropica, che alla fine cede se non gli si fornisce continuamente energia. Quindi Paolo prende lo spunto per spiegare in termini qua, forse dove entro un po' più nel dettaglio, anche scolastico se vogliamo, dell'entropia, e Paolo fa una piccola messa in scena per spiegare perché l'entropia aumenta, perché si tende alla degradazione dell'energia. Paolo dice è una questione puramente statistica, perché il disordine è più facile dell'ordine, quindi io ve l'ho detto anche, no? Potete dirlo alle vostre mamme quando la stanza è in disordine, cioè non è colpa vostra, cioè il mondo tende al disordine, è così. Paolo estrasse da una tasca il volantino che pubblicizzava la mostra. Molto elegante nella sua essenzialità, il foglio aveva lo sfondo nero da un lato e bianco dall'altro, con le scritte nei colori rispettivamente complementari. Senza dire nulla, lo stracciò in due parti che lasciò cadere. I due pezzetti di carta fluttuarono nell'aria e si depositarono sul pavimento. Il fisico indicò i due oggetti, uno bianco e uno nero. Avevamo il 50% di probabilità che accadesse questo, e il 50% che i due foglietti, cadendo, mostrassero invece due facce uguali. Ora, disse il ragazzo piegandosi goffamente per raccogliere i suoi rifiuti, ripetiamo l'esperimento, ma con più particelle. I due fogli vennero ridotti nel giro di pochi secondi in decine di pezzettini di carta, che andarono a depositarsi ancora una volta sul pavimento del museo. Senza che ci mettiamo a contare, concorderai che circa la metà dei pezzettini ci mostra il lato bianco e l'altra metà quello nero, e questo non ci sorprende. Al contrario, saremmo rimasti sorpresi se fosse accaduto qualcosa del genere, tutti con la faccia bianca o tutti con la faccia nera, evento che definiremmo stato ordinato. È la statistica. Gli stati disordinati si realizzano molto più frequentemente, semplicemente perché sono in numero maggiore. Ci sono numerosissime combinazioni possibili per tutti quei pezzettini di carta, dimostrarci le loro facce in modo da dare il risultato globale che abbiamo appena ottenuto, metà bianchi e metà neri all'incirca. Ma ci sono solo due modi di ottenere tutte le facce dello stesso colore, e cioè che tutti, ma proprio tutti, i pezzettini cadono con la stessa faccia dalla stessa parte. Due modi per l'ordine contro una moltitudine di possibilità per il disordine. Ecco, e se proprio dobbiamo parlare di disordine, di entropia, mentre c'è una tendenza naturale, a volte ci si mette anche l'uomo, la sua volontà. Quindi se vogliamo, poi entriamo di nuovo nella cultura umanistica, negli scenari socio-politico-economici, culturali, eccetera, è la guerra, e le guerre insomma sono degli eventi tremendi che non dipendono dalla materia, dalla fisica, ma a cui la fisica ha talvolta, soprattutto nell'ultimo secolo, la fisica e la chimica hanno dato dei contributi fondamentali. Quindi anche qui, voglio dire, lo studio della fisica e della chimica, da una parte, voglio dire, sì, ci consente, se vogliamo, è brutto a dire, di fare la guerra nel migliore dei modi possibili. Cioè, se il problema è la guerra, il miglior modo di risolvere i problemi, quando si può, è quello scientifico. E quindi, questo i politici l'hanno imparato e nell'ultimo secolo l'hanno messo in atto. Nella prima guerra mondiale, oltre ovviamente tutte le altre, se andate a leggere il curriculum di Leonardo da Vinci con cui si presentava gli Sforza, mi pare che nell'elenco dei 20 punti più o meno in cui lui diceva io so fare questo, questo, questo, questo, più o meno il 75% erano cose di natura bellica, no? E quindi sì, dicevo, sì, lo studio della fisica però ci può anche permettere così di fare delle riflessioni morali, cioè quanto è giusto che l'intelletto umano si adoperi nella risoluzione di questo tipo di problemi. Questo è anche un tema, secondo me, che andrebbe legato al contesto scientifico in ambito scolastico, in ambito così sociale. E molto spesso gli scienziati si sono divisi, alcuni se ne sono fatti un grande problema, qualcuno addirittura ha lasciato la scienza un po' molto deluso, molto spaventato a questo aspetto, ad esempio alcuni fisici che hanno contribuito alla realizzazione delle prime bombe atomiche nel famoso progetto Manhattan, c'è stato un famoso fisico italiano, Franco Rasetti, ad esempio, che è amico, allievo di Fermi, che partecipò al progetto Manhattan, dopo la guerra non ne volle più sapere, si dedicò alla botanica, diventò un grande botanico. Altri due esempi invece di persone che appunto scienziati che si sono confrontati col problema della guerra. Uno è Fritz Haber, premio Nobel per la chimica, forse non è un nome molto noto, però a Fritz Haber dobbiamo gli studi chimici che hanno consentito all'Europa di saziare i suoi abitanti nei periodi di vincere le grandi carestie, perché è quello che ha inventato i fertilizzanti, sostanzialmente i fertilizzanti chimici, quindi un benefattore dell'umanità. Lo stesso Fritz Haber durante la prima guerra mondiale è quello che si mette a produrre i gas da usare in trincea. Fai il calcolo, con i gas li uccidiamo molto di più che con le bombe. Gas che poi verranno ripresi addirittura dallo spettro di Fritz Haber, partecipa a due guerre, anche la seconda guerra mondiale, il Zyklon B, cioè è quello che è il gas inventato dal chimico Fritz Haber, che viene utilizzato nelle camere appunto a gas di sterminio. L'altro personaggio è Alfred Nobel, sapete, c'è il premio Nobel proprio perché Nobel diventa ricco con tante invenzioni, una di queste è la dinamite, e lui scrive proprio, beata ingenuità se vogliamo, scrive finalmente, Nobel norvegese, quindi ci sono in Norvegia magari situazioni per cui uno deve farsi un fiordo di 200 km per uno spostamento in linea d'aria di 20 km, dice finalmente i villaggi separati dai fiordi potranno con una galleria, insomma nel giro di pochi minuti, incontrarsi. No? Evviva! E poi cosa succede? Si fanno queste cose, ma si fanno poi anche le bombe con la dinamite, e quindi Nobel, un po' deluso da questa cosa, istituisce il premio Nobel, cioè lascia i suoi averi in eredità a questa organizzazione, proprio con lo scopo di premiare quegli scienziati che fanno delle scoperte che vanno a beneficio dell'umanità. Ecco, e poi, visto che abbiamo parlato di entropia, di morte, di guerra, eccetera, finirei con l'ultima immagine, che è anche l'ultima immagine del quadro, che è quella di San Francesco, la predica agli uccelli nella Basilica Superiore di Assisi, e che qui è accompagnata, nel libro non c'è, accompagnata dal ritratto di Penzias e Wilson, due fisici che nel Novecento hanno fatto una delle grandissime scoperte dell'umanità, con quell'antenna lì. Ecco, diciamo che l'associazione così è un po' così, è piuttosto superficiale, forse fa un po' ridere, nel senso che ci hanno provato anche Penzias e Wilson a parlare agli uccelli, non con lo stesso successo di San Francesco. Perché? Perché loro dovevano calibrare quella grande antenna alla periferia di New York. E è successo, quindi quando dovete calibrarla dovete essere sicuri che non risenta delle vibrazioni del terreno, eccetera. E a un certo momento dovevano lottare con delle coppie di piccioni che andavano a fare continuamente il nido lì dentro. Non sapevano più cosa fare, insomma, per cacciarli. Quindi, insomma, il collegamento è un po' questo. Però poi Paolo ne approfitta per dire, beh, tante volte lo scienziato sta nella sua torre d'avorio, fa la scienza e non ne vuole sapere d'altro. Un po' come fosse Fritz Haber, che lui è uno scienziato, è un risolutore di problemi di qualunque tipo essi siano. Forse anche il nostro Enrico Fermi, i biografi ce ne parlano un po' così, no? Cioè era un risolutore di problemi, il fisico fa il fisico, il politico fa il politico. Però è anche vero che molte volte la fisica, la scienza, questa che vogliamo, a volte descritta così arida, ha condotto a delle personalità che nei loro scritti ci esprimono veramente un grande senso così di pace e di ammirazione nei confronti del mondo, a partire ad esempio già dai primi monaci del 1200 della cattedrale della scuola di Chartres, che iniziano a far fisica, secondo alcune ricostruzioni storiche, iniziano a far fisica perché il mondo è la creazione di Dio, cioè non c'è solo la Bibbia, la parola di Dio, ma c'è il mondo che ci presenta, se noi lo studiamo bene, delle leggi magnifiche che noi possiamo studiare, che possiamo contemplare in questo modo, in qualche maniera avvicinarci alla mente di Dio. Quindi fare scienza, ci dicono questi monaci nei loro scritti, proprio ci scrivono, è quasi come pregare, contemplare questo mondo straordinario in cui ci siamo trovati a vivere. Paolo dice: stavo pensando al senso di stupore e gratitudine di San Francesco per tutto il creato. Anche molti fisici hanno provato una cosa del genere. Dopo aver affrontato le avversità poste dalla matematica o da una ingegnosa strumentazione, giungono a cogliere la potente nitidezza con cui la ragione umana è capace di riassumere la struttura delle cose. Si perviene a una visione che potrei definire quasi mistica e pacifica della bellezza dell'universo. E poi concluderei con questo ultimo dialogo tra Paolo e Francesca, a proposito appunto della radiazione cosmica. Cioè Penzias e Wilson trovano negli anni 60-70 del Novecento che il nostro universo è pieno di una radiazione a bassa energia che è distribuita uniformemente e che ci dice che sì, che forse la teoria del Big Bang non è vera come dicevamo prima, ma diciamo è probabile, è la miglior spiegazione che abbiamo per ricostruire un po' il nostro passato, no? Questa radiazione che pervade tutto l'universo. Paolo dice: certo, questo è quel che ci dice la miglior teoria che oggi possediamo per capire il mondo e la sua storia, ma forse non dovremmo preoccuparci troppo di essere o non essere figli del caso e fare come gli uccellini di San Francesco, prendere la vita come un immenso dono, anche se non sappiamo se le briciole di cui ci nutriamo, pure quelle che nutrono la nostra anima o ci svelano la struttura della natura, sono lì per caso o se ce le ha lasciate qualcuno. I due diedero un ultimo sguardo a San Francesco. Sai invece a me cosa fa pensare questa storia della radiazione cosmica? Disse la ragazza. No, dimmelo tu. Da una parte ha una sorta di rete invisibile in cui tutto è immerso, una sorta di destino che unisce tutto e tutti, passato e presente, una sorta di rete gettata da Dio, i cui fili invisibili sono quelli che fanno sì che San Francesco senta di avere qualcosa da condividere anche con gli uccellini. E dall'altra? Che ci sono tante cose belle nel mondo. Gli occhi blu della ragazza si levarono prima verso il cielo nero e poi verso Paolo. E che come Penzias e Wilson dovremmo ogni tanto interrogarci sulla calibratura della nostra antenna, chiederci se non ci siano per caso vibrazioni importanti che non cogliamo, viviamo soffocati nel rumore di tanti segnali inutili e dannosi e che rendono misere le nostre preziose vite. Magari sotto traccia ci sarebbero altri messaggi a cui dare ascolto. Ecco, con questo diciamo augurio, invito e messaggio sotto traccia. Inizio. Domanda da parte del professor Mariani, che so che è più che una domanda, volevo esprimere un'impressione. Dunque, sono stato commosso da questa lettura, come da ragazzino sono stato commosso dalla lettura dei ritratti a memoria di Bertrand Russell, perché finalmente si è devastato, distrutto questo pseudo confine che hanno sempre cercato di tracciare fra due modi diversi di conoscere le stesse cose. Adesso è... Inoltre sono contento della scelta dei due nomi, Paolo e Francesca, perché anche nella fisica è penetrata la poesia. E la poesia nella fisica si esprime molto, molto spesso. La poesia della morte, per esempio, è il secondo principio della termodinamica, nell'entropia. Il principio della vita, la poesia della vita nel terzo principio della termodinamica, l'estropia. Perciò vediamo due realtà, non si sa se opposte o soltanto contrapposte. Poi anche la poesia può subentrare in mille luoghi della fisica. E qui c'è un bel esempio in questo libro. Però anche soltanto pensare a la sfera di Pascal, questa sfera infinita, l'universo, il cui centro è dappertutto e la cui circonferenza è in nessun luogo, nella quale comunque noi viviamo. Sembra una poesia. Anche in mille altri posti, nella meccanica quantistica, quella formula che, la prima formulazione che Planck ci ha lasciato del quanto d'azione, quel 6,52 per 10 alla meno 27 erga al secondo, può impressionarci come un apostrofo rosa fra le parole quanto d'azione. Questo ringrazio l'autore per le emozioni che mi ha dato. Grazie. Io vorrei fare una domanda banale. Gli scienziati si sono chiesti, immagino sicuramente, cosa ci fosse prima del Big Bang. Io ogni tanto penso a questa cosa, sento un argomento infinito, e dico probabilmente una categoria del pensiero che non mi appartiene o ci appartiene, però chi ha una mente esercitata si sarà chiesto prima. Assolutamente, anche se poi bisogna, diciamo che la risposta più così, che può essere data così, però è assolutamente, direi, provvisoria, perché quando si parlano questi termini bisogna dire che anche quando si parla di universi paralleli, eccetera, dipende un po', forse c'è una certa relatività dei concetti all'epoca, no? Perché se per un universo intendiamo tutto quello che c'è, è un po' difficile pensare a più universi, no? La stessa cosa quando la risposta più comune dice no, il Big Bang è il momento in cui inizia a esistere quella cosa, quella grandezza che noi chiamiamo tempo, Per cui chiedersi cosa c'è prima del tempo è un modo di mettersi un po' in un assurdo insomma concettuale, ecco, quindi. Però la domanda appunto probabilmente andrebbe riformulata in un modo, quando si dice che fa scienza, la cosa importante forse più che le risposte sono le domande, no? Saper fare le domande giuste, che vuol dire le domande che ci permettono di poter di poterci lavorare sopra, ecco. Una domanda più che giustificata e naturale come quella che lei ha posto è una domanda un po' troppo generica per permetterci di lavorarci su, no? Ecco, questo sì. Qui mi può venire in mente il settimo assioma del Tractatus di Wittgenstein: wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sì. Sì, il libro c'è in linea di principio, è distribuito a tutta Italia, in particolare nelle librerie Feltrinelli, se non sbaglio, e qua a Bolzano sicuramente, cioè, si può ordinare ovunque, poi qua questa sera no, perché non ci sono le copie, non. Sì, in libreria, in tutte le librerie si può ordinare, poi so che ce l'hanno perché l'ho visto che ne hanno molti lì a, come si chiama, da Ubik in città, da altre parti ho visto, ma magari avevano poche copie, non so, ecco, quindi anche con le librerie online si può. Mi è venuto in mente che c'era la possibilità di associare una musica ai singoli quadri, di farne un nuovo contenitore per musiche associate proprio all'evento descritto nel quadro. Sì, devo dire, mi fa piacere che lo dica, perché ci avevo pensato, ma avevo pensato anche, dico, forse adesso sto andando troppo oltre, insomma. Però anzi le dico, infatti dopo aver pensato questa idea e averla anche messa da parte, ho letto di credo proprio un fisico italiano che lavora a Los Angeles, che è riuscito in qualche modo a conoscere un direttore d'orchestra di Los Angeles, e hanno fatto una specie di orchestrazione sui temi della fisica, quindi così spiegando la fisica e poi sottolineandola, diciamo, con delle musiche. So che hanno fatto questa cosa. Quindi, in questi temi spesso troviamo il riferimento musicale. San Francesco di Carusello è un pezzo di Liszt, per dirne uno, ma ce n'è tanti altri che hanno già una rappresentazione musicale dell'evento visivo. Certo, questa è un'ottima idea su cui lavorerà poi il prossimo. Ci penserò ultimamente. Bene, grazie.